in primo piano. Ore 7, 16 minuti e 54 secondi, oggi domenica 3 novembre, buongiorno da Luca Davi, qua per raccontarvi come i giornali italiani raccontano gran parte delle vicende italiane e ovviamente globali. Oggi i quotidiani tendenzialmente aprono quasi tutti con la vicenda, l'affaire Ligresti Cancellieri. Come sapete, ieri il Guardasigilli ha detto in un incontro con i radicali che non intende dimettersi, anzi lo rifarebbe questa telefonata che ha permesso la scarcerazione di Giulia Ligresti. Dice ancora il Guardasigilli: ho diritto a essere umana. E nel frattempo arrivano anche le, come avete sentito dai diversi GR, arrivano anche le risposte del Premier Letta, che dice che martedì appunto la cancelliera chiarirà ogni dubbio, mentre arrivano anche le prime reazioni dei partiti politici, perché il PD dice serve più trasparenza, e arrivano anche l'attacco insomma di Grillo che chiede chiarimenti. Partirei da Repubblica, perché oggi il quotidiano diretto da Ezio Mauro ha anche un'intervista, un'esclusiva proprio al Guardasigilli. Titola Repubblica: dimettermi neanche per sogno, il virgolettato appunto della Cancellieri, che dice la Ligresti poteva morire. Letta dice non devono esserci ombre. Continua appunto la Cancellieri: mai chiesto favori a Berlusconi, non, se sono però un peso il governo, per il governo torno a casa. Andando a leggere proprio l'intervista concessa a Liana Milella di Repubblica, il ministro chiarisce, intende insomma dire, dare la sua versione. E vi leggo qualche passaggio, perché dice il ministro: sono amica del medico Antonino Ligresti, e chi conosce la famiglia sa cosa vuol dire. Dal rapporto con lui è nato il contatto con quella di Salvatore Ligresti, appunto. Ho conosciuto la compagna, ho sentito il bisogno sotto il profilo umano di farla una telefonata, perché il marito ultra ottantenne e malato era stato arrestato. Non sono entrata nel merito dell'inchiesta, ho parlato con lei come mi è accaduto di parlare con le mogli di altri detenuti. Si riferisce appunto alla Fragni, la compagna di Salvatore Ligresti. Essere ministro non significa dimenticare l'aspetto umano ed essere un automa. Alla domanda: non ritiene che un guardasigilli debba stare dalla parte dei magistrati e non degli arrestati? Risponde ancora la Cancellieri: chi dice questo? C'è un mio comportamento che fa pensare che fossi a favore dei Ligresti? Cosa ho detto e ho fatto che faccia pensare che fossi contro i giudici? Se ci fosse stata anche solo un segale di una mia interferenza, non avrebbero forse reagito? Non c'è stato nulla, nulla, nulla, solo una solidarietà umana. Non possiamo dimenticare che siamo persone. Continua l'intervista chiedendo appunto, la giornalista denuncia un attacco politico, risponde ancora Cancellieri: sì, lo è, ci sono persone che hanno motivi di rancore nei miei confronti, perché ho sciolto comuni per mafia e fatto pulizia negli enti corrotti. Continuano a dire che sono intervenuta sui magistrati, ma non è vero, basta sentire Caselli. Non c'è serenità nel valutare i fatti, si infanga una persona senza pensarci. E continua concludendo questa lunga comunque intervista, che vi consiglio di leggere da parte del Guardasigilli. È vero che per fare carriera ha chiesto aiuto a Berlusconi? Risposta: mai, fate pure un'inchiesta, non ho mai chiesto aiuto a nessuno, è un'offesa professionale che non accetto. La mia forza è stata sempre quella di non avere sponsor, chiamate pure i ministri con cui ho lavorato, Napolitano compreso, sono talmente tranquilla che divento una bestia, una carriera intemerata non può essere macchiata così. Insomma, questa è la risposta appunto del ministro Cancellieri, che intende in qualche modo rispondere agli attacchi che in questi giorni appunto le sono piovute addosso per ciò che pare essere comunque un comportamento da alcuni osservatori definito quantomeno una zona grigia, che è appunto anche il titolo di un commento di Massimo Giannini, proprio in prima pagina sempre di Repubblica. Ricordiamo, Repubblica è il quotidiano che ha in qualche modo tirato fuori il caso appunto delle intercettazioni tra Ligresti e il ministro Cancellieri, sostanzialmente. E dice Giannini: c'è una zona grigia che rende inquietante la vicenda Cancellieri e Ligresti, che svela natura compromissoria e forse compromessa del potere. Il ministro dice di non pentirsi, evocando quasi una categoria religiosa che nel caso in questione non ha alcun senso, perché c'è in gioco un problema politico. Perché la Cancellieri si è sentita in dovere di farlo? Questo chiarimento non è arrivato. Il movente che ha spinto il ministro a sollecitare la scarcerazione di Giulia Ligresti non sembra il volto umano della giustizia. dice Giannini, ma semmai la faccia complice dell'amicizia. Se il guardasigilli non è libero nei confronti di chi gli chiede un passo improprio, non può restare al suo posto. Quindi, insomma, Repubblica segnala un'urgenza, l'urgenza appunto di dimissioni. Il Corriere della Sera, anche il quotidiano diretto da Ferruccio De Bortoli, apre con appunto la vicenda Cancellieri, non mi dimetto, lo rifarei. Cancelliere il caso Ligresti, Letta chiarirà ogni dubbio. Il guardasigilli si difende, ho diritto all'umanità. Il PD duro, serve trasparenza. E Grillo ancora all'attacco. Cosa tira fuori il Corriere della Sera quest'oggi? C'è un'intervista, un colloquio, diciamo così, a Cascini. Cascini è il magistrato che da poco è stato nominato vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e che ha ricevuto appunto la telefonata della Cancellieri e che appunto dovrebbe aver avviato una procedura per una scarcerazione anticipata della Ligresti. In questo colloquio con il Corriere della Sera, Cascini segnala che la Cancellieri disse di essere amica dei Ligresti. Famiglia nota, questo è il virgolettato, anche perché il padre e due figli erano stati arrestati un mese prima e un altro figlio era latitante, appunto, ricorda Cascini. Mi segnalò il caso della figlia minore Giulia, dicendomi di essere molto preoccupata perché si trattava di una persona che aveva avuto problemi di anoressia. Per Cascini, però, la telefonata del ministro non era insolita. Dice infatti il magistrato: da quando si è insediata e si è dedicata con particolare attenzione ai problemi del carcere e con lei o con il capo della sua segreteria ci sentiamo quasi tutti i giorni. Così come quasi tutti i giorni arrivano segnalazioni su detenuti con problemi particolari, spesso anche dall'ufficio del ministro, con un appunto autografo del guardasigilli. Per Cascini, che possiamo fare? Di solito sono i casi più gravi o dolorosi. Questo è il Corriere della Sera. La stampa torna, anche il quotidiano torinese torna sulla vicenda Cancellieri, segnala in particolare un retroscena di questo sostanzialmente il comportamento e l'atteggiamento che Letta dovrebbe adottare a partire appunto insomma, in questi giorni e poi in prospettiva, anche perché martedì la Cancellieri parlerà in aula in Parlamento e chiarirà la sua posizione. Fughera ogni dubbio, dice la stampa, ma Letta aspetta l'aula. Palazzo Chigi martedì il chiarimento, non ci devono essere ombre. Il Premier, dopo un faccia a faccia, ha garantito la sua copertura senza esporsi in prima persona. Questo dovrebbe essere appunto l'atteggiamento del Premier sulla vicenda Cancellieri. Dall'altra parte riporta anche la stampa appunto il comportamento l'atteggiamento dei partiti politici che si stanno in qualche modo organizzando, insomma, per riuscire a gestire al meglio tutta la vicenda, che ovviamente ha poi dei risvolti politici, in qualche modo è inevitabile. In fin dei conti, dice la stampa, il PD sintetizza nel comportamento appunto con non si può minimizzare, mentre i grillini insistono per la sfiducia, perché i democratici, va anche detto, che non sono in questo momento allineati su una posizione univoca. C'è insomma, una doppia corrente di pensiero. C'è chi sostiene che la vicenda possa essere strumentalizzata a fini politici in maniera anche eccessiva, c'è invece chi sostiene che quindi per questo vada in qualche modo minimizzata, c'è invece è più per la linea dura e quindi insomma chiede un comportamento lineare in virtù di quello che è accaduto. Vi voglio ancora segnalare tre titoli di tre quotidiani che, diciamo così, adottano un comportamento molto netto sulla vicenda Cancellieri, e in qualche modo anomalo in particolare per due di essi, perché il giornale Libero, cioè due quotidiani vicini ovviamente al partito di Silvio Berlusconi, alla famiglia anche di Silvio Berlusconi, in particolare il giornale, adottano due strategie, due impostazioni differenti. Il giornale titola: Orgoglio Cancellieri, Libera umana. Sul caso Ligresti, il guardasigilli passa al contrattacco e zittisce ipocriti e giustizialisti. Si dimette chi ha qualcosa di cui pentirsi. Non sono andata al di là dei miei compiti. Insomma, dice il giornale di Sallusti, il ministro non molla. Dall'altra parte, Libero dice: il ministro intoccabile, s'attacca alla poltrona. La Cancellieri, atto d'umanità, non mi dimetto. Ma se la sua non è concussione, allora neanche quella di Berlusconi per Rubi lo è. Napolitano e i giudici decidano, si sistema Anna Maria, la sua rete e il suo impero immobiliare. Insomma, due visioni opposte. Vi voglio leggere due passaggi appunto di questi due quotidiani. Il commento del giornale, appunto, più in difesa del Guardasigilli, dice: troppa amicizia di Anna Maria, cancelliere per i Ligresti. Boh, Ludovico Festa. È appunto il corsivo, il commento sul giornale. Boh, quello che impressiona di più è come si tenti di far secco un altro ministro della giustizia. Festa ricorda altri casi di guardasigilli che sono stati, tra virgolette, impallinati: Mancuso nel 95, Mastella nel 2007. Quindi dice sostanzialmente che il rischio è che accada lo stesso anche per la cancelliera. Dall'altra parte, Belpietro dice: come umano il ministro della giustizia che le chiede conto del suo intervento a favore di Giulio Ligresti, detenuto in custodia cautelare e a grave rischio per le sue condizioni di salute? La cancelliera risponde che il suo è stato un intervento umanitario. Tuttavia, da quel che si capisce, forte la protezione del Quirinale, il ministro si sta nascondendo dietro a un dito. E continua Belpietro: tuttavia, se un ministro può intervenire e segnalare le condizioni particolari di un arrestato senza che ciò desti turbamento né un illecito, allora bisogna anche decidere come ci comportiamo quando un presidente del Consiglio fa una telefonata per richiedere un occhio di riguardo nei confronti di una persona che non è neppure in stato di fermo. E qua è riferimento ovviamente al caso di Ruby. O è reato chiamare i funzionari per ottenere la liberazione di una persona, oppure non lo è. Questo è insomma il commento di Belpietro. In primo piano. E buongiorno, bentrovati allora per la rassegna stampa domenicale di Radio 24. Parlavamo della vicenda Ligresti sui quotidiani italiani. Citavamo prima due giornali vicino al partito di Silvio Berlusconi, cioè Libero e Il Giornale. Arriviamo invece al Fatto Quotidiano che adotta un approccio abbastanza duro nei confronti del ministro, perché chiede appunto di lasciare. Letta Junior pronto a salvare la ministra dei Ligresti, titolo al Fatto Quotidiano in prima pagina, e c'è un commento intitolato Scancellieri di Marco Travaglio. Che vi vada a leggere qualche passaggio. Dice: è ufficiale, il ministro della giustizia non conosce o non capisce il dovere di imparzialità a cui è tenuto ogni membro del governo e della pubblica amministrazione. Ma anche Napolitano e Letta Junior, per non parlare dei partiti della maggioranza, hanno idee molto confuse in materia. Infatti il primo tace, e meno male visto quel che riuscì a dire per difendere un altro ministro da cacciare, Alfano, e il secondo, continua Travaglio, il secondo biascica che la ministra chiarirà tutto, come se non fosse tutto abbastanza chiaro. Lei intanto ha capito che la farà franca e ripete che sparlare con la moglie di un arrestato, a sua volta padre di tre arrestati, con la moglie di un arrestato dei magistrati che hanno disposto gli arresti, e poi raccomandare presso i sottoposti una delle persone arrestate, è cosa assolutamente normale per un ministro della giustizia, anzi doverosa. Anzi, non farlo sarebbe colpevole omissione. Non le passa neppure per l'anticamera del cervello che intercedere per una detenuta amica sua, figlia di un amico suo, fra l'altro datore di lavoro di suo figlio, significa tradire i doveri di imparzialità e di servizio all'intera nazione. Insomma, questo è il commento di Marco Travaglio. Chiusa la vicenda Cancellieri, chiuso, insomma, per quello che riguarda i maggiori quotidiani italiani, vi segnalo invece per così dire, indicazione che arriva da Repubblica, che minaccia sostanzialmente l'arrivo di possibili nubi sulla ripresa, perché l'Italia, dice Repubblica in un articolo di Federico Fubini, rischia di nuovo un deficit oltre il 3%. Dice che Fubini che nei prossimi giorni i tecnici di Bruxelles valuteranno lo stato di salute del deficit italiano e il rischio è che possa di nuovo superare il 3% del prodotto interno lordo. In questo caso si dovrà di nuovo rimettere il paese sotto procedura per violazione delle regole europee di finanza pubblica. Il governo perderebbe lo spazio per nuovi investimenti, circa 3 miliardi, che sono alla base della manovra appunto sul 2014 e che hanno permesso sostanzialmente di varare qualche misura per la crescita, e quindi i saldi sull'anno prossimo tornerebbero in gioco, le speranze di ripresa si allontanerebbero. Vedremo quindi martedì, perché questo è il giorno per capire che cosa deciderà Bruxelles. Dall'altra parte, però, Repubblica in qualche modo getta acqua sul fuoco, dice che il rischio che superi il 3% è vero che è reale, però insomma si confida che dopo che Bruxelles ha deciso di portare in luglio scorso proprio l'Italia nella lista dei paesi in regola, potrebbe non arrivare direttamente, insomma, questa sentenza negativa nei confronti del paese. Si dice che dentro e fuori il Ministero dell'Economia, gli addetti ai lavori sanno che la manovra correttiva da 1,5 miliardi approvata in ottobre forse non basterà. I saldi di bilancio restano sul filo, lo stop al pagamento della tassa sulla prima casa, il blocco dell'aumento dell'IVA in estate e una caduta dell'economia, oltre alle attese, hanno però riaperto una falla per niente facile da ricomporre. Insomma, questo è il rischio che pende sui conti pubblici italiani. A proposito di conti pubblici e di manovre, il Sole 24 Ore oggi dedica con ampi dettagli ciò che il governo sta preparando in termini di credito agevolato per le imprese. In particolare con un regolamento attuativo firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico Zanonato, che in questi giorni proprio dovrebbe concretizzarsi tramite il concerto del Ministro dell'Economia. Questo decreto è particolarmente atteso dalle imprese, soprattutto in tutti i settori manifatturieri, e prevede fondo di garanzia per le PMI, tempi dilatati, quelli che stanno vivendo appunto per le bozze del decreto che contengono misure nel contenuto del DL Fare, e in questo caso dovrebbe in qualche modo trovare uno sblocco, ma si attende ovviamente qualche novità. Gli incentivi per le start-up, legge in particolare per le PMI, la legge sulla concorrenza, insomma, tutto questo in particolare bonus macchinari in 5 anni. Tutto questo dovrebbe trovare teoricamente spazi in questo regolamento attuativo. Nel contempo, ed è un'altra indicazione esclusiva che arriva dal Sole 24 Ore, il governo sta ragionando per una corsia veloce per la spending review. Questo è il titolo dell'apertura sostanzialmente dedicata al Sole 24 Ore di oggi, cioè una corsia veloce ai tagli di spesa. Perché sì, perché si punta ad anticipare una tranche dei tagli già per il 2014, nel 2014, quindi un anno di anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista dalla legge di stabilità. Quindi risparmi utili per la riduzione della pressione fiscale, magari per rafforzare in corsa il taglio del cuneo fiscale. Questo è l'obiettivo di Carlo Cottarelli, che ancora non ha comunicato ufficialmente la cosa, ma ci sta lavorando, insomma, segnala il Sole 24 Ore. Non è escluso che già a febbraio e marzo del prossimo anno si arrivi con un piano dettagliato, con tanto di possibili ricadute sul personale pubblico in termini di mobilità. Questo e altri dettagli appunto sul Sole 24 Ore di oggi. Ma c'è cioè, ovviamente dentro a le sole 24 ore, così come negli altri giornali italiani, l'altro tema che domina appunto le cronache è quello del Datagate. L'avete sentito appunto all'interno del GR. Lo scandalo si allarga perché? Perché le ultime rivelazioni di Snowden stanno segnalando sostanzialmente una rete non solo americana ma anche europea di spie. Datagate, Roma esclusa dal patto dei 5 europei. Sostanzialmente in questo Datagate, in questa rete europea costituita, come dice Repubblica, da Londra, Berlino e Parigi, l'Italia non sarebbe riuscita ad entrare, sarebbe o non avrebbe voluto, perché dice il Corriere della Sera, per i servizi britannici gli italiani erano litigiosi con troppi vincoli. Queste sono tutto parte dalle rivelazioni appunto del Guardian, che raccoglie i vaticini di Snowden sostanzialmente. Sul secolo XIX si va un po' più nel dettaglio di quelle che potrebbero essere state le ragioni di questa esclusione dei servizi segreti italiani da questa rete europea di spie. Quali sono le ragioni? A quanto pare Roma sarebbe stata esclusa non per mancanza di volontà, piuttosto per oggettiva incapacità, dice Francesco Margiocco sul secolo XIX. Lo si evince da due diversi rapporti, entrambi del 2008, del Government Communication Headquarters, cioè i vertici dell'agenzia britannica. Da questi documenti appare chiara la frustrazione, appunto, dei vertici britannici per le frizioni tra le due agenzie italiane in particolare. E in particolare per i limiti imposti alla legge e alla loro attività. ci sono state diverse discussioni sull'antiterrorismo e sui temi legati a internet con le due agenzie italiane che sono appunto l'AISE per l'estero e l'AISI per gli interni, ma i servizi segreti italiani sono troppo divisi e non possono, non vogliono cooperare tra loro. Fonti dell'intelligence italiana, dice ancora Marciocco, sul secolo XIX, sentiti dall'ANSA, fonti dell'intelligence, quindi queste sostanzialmente persone che sarebbero vicine alle spie italiane, si sono giustificati dicendo che siamo più garantisti degli altri e non siamo disponibili ad andare al di là di quanto previsto dall'ordinamento. Insomma, sarebbe un problema proprio di non solo di lotte burocratiche, ma anche proprio di vincoli imposti dal codice proprio per rendere impossibile le intercettazioni di massa. Siamo garantisti. Questo è il motivo per cui l'Italia sarebbe esclusa da questo club dell'intelligence europea. Sul tema internet e non solo, internet e comunicazioni, è interessante come oggi i giornali raccontano questa vicenda curiosa che contrappone Gates a Bill Gates, ovviamente il fondatore e inventore di Microsoft, a Mark Zuckerberg, che è invece il fondatore di Facebook. In questo caso, la lezione di Gates a Zuckerberg: servono vaccini, non computer, dice la Repubblica. Perché? Perché c'è questo dibattito fra i due. Fra questi due importanti personaggi che hanno dato sicuramente una svolta al mondo della tecnologia negli ultimi decenni, e in particolare Gates ricorda Zucconi, il nerd, il secchione, l'anatrocolo bruttino e sgraziato che popolò grazie alla scelta fatta da IBM per i suoi primi PC di massa adottando l'MS-DOS, cioè il pianeta con i suoi sistemi operativi e le sue applicazioni. Sembra infatti il classico apprendista stregone spaventato dalle conseguenze del proprio esperimento. Perché appunto la vicenda è che Gates sostanzialmente ha risposto a Zuckerberg sostenendo che non è con internet che si salverà il mondo, anzi la povertà, e questo è il commento di Gates, si combatte con i vaccini, sostanzialmente in particolare le malattie. Bill Gates: il web non è tutto, prima vacciniamo i bambini, dice infatti la stampa con un servizio di Maurizio Molinari da New York. Critica Zuckerberg: la povertà non si batte con finanza e tecnologia, il fondatore di Microsoft contro l'inventore di Facebook. L'innovazione è certamente una cosa positiva e contribuisce a migliorare le condizioni degli esseri umani, dice Bill Gates in un'intervista rilasciata al Financial Times. Quindi contribuisce a migliorare le condizioni degli esseri umani, ma la tecnologia, benché straordinaria, non consente alle persone più bisognose di disporre di ciò che più gli serve nell'arco di tempo necessario. E così sostanzialmente continua. Dire che connettersi a internet, e qua va giù duro nei confronti di Zuckerberg, è più importante di trovare un vaccino contro la malaria, a mio avviso, è una barzelletta. Quindi, all'età di 58 anni, e questo appunto era il commento di Zucconi, sembra che Bill Gates abbia in qualche modo rivisto, o comunque veda con occhi diversi. Sappiamo che lui ha fondato una nuova, ha fondato appunto, cioè una fondazione a suo nome che si preoccupa di aiutare i bambini che sono in difficoltà, e comunque di aiutare soprattutto sul fronte delle malattie. Quindi Gates sostanzialmente sembra essersi in qualche modo redento da una particolare passione, o comunque da un massimo impegno sul fronte solamente della tecnologia. Continua Zucconi: le follie immaginate dai due di Google con il progetto Loon, calamburo fra Walloon e Loon, svitato di circondare il pianeta con palloni aerostatici per diffondere ovunque la rete, dunque non solo non lo divertono, appunto Bill Gates, ma addirittura lo irritano. E questo è un tema che torna su tutti i giornali italiani, perché è appunto il segnale che sostanzialmente qualcosa evidentemente si sta rompendo nel rapporto fra i due, che bisogna anche dire non è mai stato felicissimo. C'è forse ancora il tempo per segnalare e qua arriviamo un po' alle cronache italiane, di cui poi vi racconterò ampiamente dopo. C'è il tempo per segnalare una nuova moda che forse sta esplodendo sul fronte del matrimonio, cioè si stanno moltiplicando i corsi laici prima delle nozze, così titola il Corriere della Sera. Corsi laici non solo che prima appunto in qualche modo erano legati ovviamente alla preparazione del matrimonio da parte della Chiesa Cattolica, ma sempre di più da associazioni laiche. I dettagli ve li do dopo i consigli per le strade. In primo piano. Buongiorno, bentrovati, ore 7.49, Luca Davi al microfono con la collaborazione di Carmelo Lauricella per la rassegna stampa di GR24. Vi parlavo prima di questa moda che sta in qualche modo nascendo, una moda o forse magari non sarà solamente una moda, stanno nascendo questi corsi prematrimoniali laici, quindi non gestiti appunto dalla Chiesa Cattolica. Il Corriere della Sera lo segnala, lezioni di matrimonio da psicologi e avvocati, si moltiplicano i corsi laici prima delle nozze. Società, Anastasia e Filippo, così abbiamo imparato a non litigare. Sostanzialmente si racconta di questa coppia che partecipa e che sta, anzi, poi ha varato appunto questa serie di corsi che partiranno in settimana a Milano. L'idea di un corso prematrimoniale, cito appunto l'articolo del Corriere della Sera, l'idea di un corso prematrimoniale laico pensato in particolare, ma non esclusivamente perché si sposa con rito civile. Più della metà delle coppie al nord e al centro, percentuale che a livello nazionale scende al 39,8%. Se si sommano i dati del sud, dove sposarsi in chiesa è pressoché la norma. È così che, insomma, martedì si parte per 6 incontri di 2 ore, ciascuno per acquisire competenze legali e di relazione utili per affrontare un progetto bello come il matrimonio. Ma l'iniziativa, ricorda il Corriere, non è isolata, perché da Napoli a Treviso, passando per Lecco, l'esigenza di prepararsi al grande giorno è sentita al netto della fede religiosa. Solo che mentre la chiesa rende obbligatorio formare promessi sposi, in ambito laico tutto è lasciato alla buona volontà dei diretti interessati. Insomma, se i matrimoni in qualche modo spesso vanno in frantumi, qualcuno prova anche a trovare un modo laico per provare a evitare questi traumi. Ricordando invece, proprio per chi è in viaggio, ma prima si parla di consigli per la viabilità, vi segnalo invece un articolo interessante su Repubblica. Richiamata anche in prima pagina, perché? Perché la proposta dei comuni italiani, cioè l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, è di far viaggiare tutti in auto a 30 all'ora in città. Questa sarebbe una proposta di modifica al codice della strada, una proposta che tra l'altro ha avuto anche l'ok del governo, che ha accorciato i tempi di un progetto che martedì prossimo inizierà l'iter legislativo. L'obiettivo? Tutelare e garantire la sicurezza nelle aree urbane, come conferma la sottosegretaria alle infrastrutture e ai trasporti Erasmo De Angelis. Allora, il limite appunto di velocità in città è di 50 km all'ora, allora si passerebbe a 30. Ora, con calma, siamo ancora alle proposte iniziali, però intanto il governo pare che sia favorevole. In auto 30 all'ora per salvare ciclisti e pedoni, le città diventano slow, dice Repubblica. Il governo dice sì, sarà una rivoluzione. La possibilità appunto di moderare la velocità, e vi sto leggendo l'articolo, nei centri abitati a 30 km orari in tutte quelle aree con caratteristiche infrastrutturali che lo consentono, è l'idea, e questa potrebbe essere l'idea, ad eccezione ovviamente delle principali arterie di scorrimento. Va anche detto, e questo come sicuramente chi ci ascolta da Roma lo sa, va anche detto che la proposta è stata in qualche modo applicata, o tentato, si è tentato di applicarla anche a Roma. Perché? Perché lì si è tentato sostanzialmente di introdurre un limite di 30 km orari, sorvegliata questa rete fitta di autovelox che appunto tenta di controllare la velocità, ma è finita male perché nessuno sapeva di questi nuovi limiti, ricorda Repubblica, che sono stati segnalati male. Il risultato è stato il risultato finale. Tutti sono stati multati, tutti coloro che passavano lì sotto erano multati, insomma, alla fin fine gli autovelox sono stati spenti perché sembrava insostenibile come vicenda. Vi segnalo, e qua passiamo invece a vicende di esteri, vi segnalo un'interessante inchiesta di Avvenire sulla vicenda legata quantomeno agli omicidi di Alba Dorata in Grecia. Dalla Grecia all'ombra degli anni di piombo, titola Avvenire, alimentata dalle tre grandi paure, cresce la xenofobia in Europa. Alba Dorata è la manifestazione plateale di un malessere diffuso. Sicurezza, occupazione e migrazione sono i tre nodi sociali irrisolti con cui i paesi europei stanno facendo i conti e che forniscono linfa alle spinte antidemocratiche. Gli assassini ad Atene sono una vera e propria esecuzione davanti alle sedi del partito neonazista, e tutto questo ha ovviamente riaperto una ferita contagiosa. Ricorda avvenire che l'ostilità nei confronti dell'euro sta allineando gruppi e gruppuscoli accomunati dall'idea di una unione matrigna, e alcuni membri della stessa BCE scommettono silenziosi della fine dell'euro. Ricorda ancora avvenire che, tra l'altro, i broker di Londra stanno quotando l'eventuale vittoria di formazioni populiste anti-europeiste alle elezioni del 2014. Insomma, le cose stanno in qualche modo muovendosi. Bene, sono le 7:54, il tempo a disposizione è terminato. Grazie per averci seguito e buona domenica.